Smart City, la città intelligente. Benvenuti a Smart City, sono Federico Pedrocchi. In questa puntata tratteremo un argomento piuttosto interessante e piuttosto singolare. Coinvolti in questo tema, che è un progetto, ci sono due grandi aziende e una grande città europea che è Barcellona. Una di queste due grandi aziende è qui ospite con noi, e si tratta della Cisco, Fabio Florio. Fabio Florio, buonasera. Buonasera. Lei dirige il business development di Cisco. Sì, per quanto riguarda la nostra strategia nell'ambito delle Smart Cities. L'altra grande azienda è GDF Suez, che è un'azienda multi-utility francese. Che cosa fa GDF? Fornisce diverse modalità di energia, diciamo, nell'ambito appunto sia dell'energia elettrica che del gas che delle altre risorse nell'ambito appunto delle utilities energetiche. Che sappiamo essere uno dei settori centrali certamente dei progetti Smart City. E poi c'è il comune di Barcellona, una città molto interessante proprio anche dal punto di vista della progettualità urbanistica. Bene, vi siete messi insieme con un obiettivo abbastanza ambizioso che però merita essere perseguito. Ci dica di che si tratta. L'iniziativa si chiama City Protocol e ha l'obiettivo di creare degli standard, dei modelli di certificazione nell'ambito delle Smart Cities. È sicuramente un obiettivo ambizioso perché ovviamente prevede di replicare una serie di best practice, di modelli, di progetti realizzati in giro per il mondo e quindi da poter essere replicati in altre città, ovviamente in una logica molto collaborativa e aperta. Sì. Non è Cisco o Barcellona o GDF che definiscono questo protocollo, ma il protocollo viene definito da tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa in una logica di City Protocol Society. Cioè voi lanciate l'idea, offrite gli strumenti, come dire, di coordinamento di quello che può arrivare e chiamate ad una produzione, ad una creatività diffusa. Questo è il... È corretto, e qui potranno partecipare città, potranno partecipare aziende, utilities, chiunque, anche singoli cittadini potranno partecipare, dire la loro e appunto fornire un contributo nella creazione di questo protocollo, di questi standard, di questi modelli di certificazione. Io le dicevo all'inizio, progetto ambizioso, perché è possibile trovare una definizione di base, insomma un protocollo di base per quello che dovrebbe essere una Smart City? Sì, è possibile, però è un problema che va affrontato perché oggi, ad esempio, se noi prendiamo tre medici in tre diverse aree del mondo e chiediamo come è fatto il corpo umano, otteniamo tre risposte identiche. Sì, se noi certo. prendiamo oggi tre amministratori di città o di aree urbane e chiediamo come è fatto una Smart City, ho capito dove vuole arrivare. Otteniamo tre risposte diverse. E questo è verissimo, questo è verissimo. E quindi c'è bisogno di alcuni fondamentali, però, che non sono pochi probabilmente, ma voi dite alcuni fondamentali ci devono essere. Sì, la cosa importante è quando si pensa per esempio anche alla replicabilità dei progetti, è ovvio che bisogna partire da un presupposto che non tutte le città sono uguali, quindi un modello di progetto sviluppato ad esempio a Stoccolma non è detto che funzioni per Milano o per Roma. La cosa importante è capire all'interno di quel progetto che cosa può essere replicato, ma non solo in termini di tecnologie e di soluzioni, ma per esempio anche in modelli di business, di modelli finanziari, far sì che anche le altre città possano ereditare le migliori esperienze che vengono sviluppate nel mondo. Certo, certo. Sì, anch'io immagino che ci sono certe tematiche che sono fortemente legate alla struttura della città, quindi certe cose che si possono fare coi centri storici. Bene, sappiamo che per esempio l'Italia ha una grande tradizione di centri storici, altre città nel mondo non ce l'hanno e quindi è inutile pensare che le strategie siano le stesse. Però tante cose invece sì, avrebbero vantaggio da un confronto incrociato e dalla creazione di standard. Senta Florio, ma com'è che si fa allora a collaborare a questa cosa? Lei addirittura poco fa ha detto i singoli cittadini possono dare delle idee. Sì, verrà creato un modello di collaborazione aperta, no? Dove chiunque, anche attraverso un sito internet, potrà sottoporre le proprie idee, verranno fatte delle riunioni anche dove chiunque aderisce a questo protocollo potrà partecipare. E quando dico chiunque, ripeto, città, aziende, utilities, tutti i possibili attori e attrici di questa cosa. E quindi insieme poi chi aderirà al sito protocol deciderà che cosa vale la pena considerare valido sia nell'ambito del modello sia nell'ambito dell'attività di certificazione. Ma quindi ci comunicherete un sito, una piattaforma di base a cui accedere? Allora, l'indirizzo è molto semplice, è www.cityprotocol.org e su questo sito si trovano tutte le informazioni sia relative appunto all'iniziativa per come viene sviluppata sia a come ovviamente poter aderire e partecipare all'interno di questo protocollo. Bene, vediamo cosa ne viene fuori. Fabio Florio, grazie, buonasera e buon lavoro. Grazie e a risentirci presto. Per Smart City è tutto, questa sera l'appuntamento è domani sera, il tema sarà housing sociale. Buona serata a tutti.